io dolci ricordi della vita. Ore d'oblio, date la gioia più infinita. È tanto bello abbandonarsi nel piacere tentatore e follemente inebriarsi in un attimo d'amore. Ore d'oblio, momenti lieti d'ogni cuore. Quante tristezze sapete far dimenticare. È come il ciel che si veste d'azzurro, questo breve sussurro. Ore d'oblio. Tristezze sapete far dimenticare. È come il ciel che si veste d'azzurro, questo breve sussurro. Ore d'oblio.